La posta, la posta, posta, posta, posta. 96.5, cultural, comunitaria, taria, taria, taria y educativa. La posta, posta, posta. 96.5. Desde Cuartel Quinto.